Fumava il toscano, Sebastiano. E tra una boccata e l'altra mi disse che lui, però, aveva trovato un modo. Una tecnica per evitare che tutto questo accadesse. Mi disse che il segreto era rivivere tutte le tappe della loro storia d'amore. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Un giovedì qualunque, il 26 di maggio del 2011. Sono le 16:08 minuti. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Quando avevo 16 anni, in quell'estate sono andato in un rifugio sotto il Gran Paradiso. Ci sono andato con un gruppo di 5 persone, tra cui c'erano due amici che avevano la mia età e il papà di uno di loro. E i ricordi che ho di quella giornata sono di una giornata piena di sole, di una notte divertente anche se totalmente in bianco. E poi la colazione la mattina presto, prima dell'alba. E poi riprendere la camminata dal primo rifugio su verso la vetta. Mi ricordo le camminate nella neve, anche se erano i primi di luglio. Non mi ricordo invece la fatica. Ricordo l'aria sottile, ricordo il naso ustionato dal sole e poi la vetta, di pietra, e il panorama intorno. E poi la fame, una fame totale, la voglia di mangiare un vitello. Avevo 16 anni. Ci sono tornato la scorsa estate, con Tiziano Bonini, sul Gran Paradiso. Ci sono tornato perché avremmo dovuto salire sul Rosa, però era troppo presto, i rifugi erano ancora chiusi. Quindi mi ricordo il sudore che bagnava anche la giacca a vento. Mi ricordo la notte con il respiro che mancava e poi la fatica. Una fatica infinita. L'altitudine che si fa sentire che non mi fa camminare. E la fatica. Una fatica infinita. Di fatto non ce l'abbiamo fatta. Dall'altra vetta siamo a 261 metri dalla seconda vetta. Prima vetta è stata raggiunta. Sì, guardami però, sembro uscito dalla crisi del 29. Insomma, la vetta non l'abbiamo raggiunta. A 3.008 siamo tornati indietro. Però poi mi ricordo ancora tutto il resto. Mi ricordo la discesa himalayana, sdraiato su un fianco a scivolare giù dai pendii. E mi ricordo il sollievo del rifugio. E la discesa poi, quasi di corsa. Ecco, a vederla da lontano, queste due esperienze identiche, però fatte a distanza di anni, non dicono moltissimo del Gran Paradiso o del salire una montagna. Dicono qualcosa soprattutto di me. Dicono del mio fisico, ovviamente, che a 35 anni regge meno che a 16. Ma dicono anche del modo diverso di apprendere le cose, di ricordare i momenti migliori, quelli peggiori. Dicono dell'incoscienza di prima e dei limiti di adesso, della consapevolezza e dell'ingenuità. Mi piace però rifare le stesse identiche esperienze a distanza di anni. Forse perché ho anche gli anni per potermelo permettere adesso. Mi piace tornare in un posto, mi piace provare un cibo provato anni prima, fare un'attività già fatta una volta in un luogo preciso ma anni prima. Mi piace stupirmi di come le cose sono cambiate e come sono io se sono cambiato. A voi è mai capitato di rivivere a distanza di anni la stessa esperienza fatta anni prima? Come scalare la stessa montagna, ad esempio, ma anche ricomprare la stessa auto, quella che avevate a 18 anni, quella Fulvia coupé che vi aveva fatto impazzire. Oppure rimettere insieme una band a 50 anni a distanza di 30, ma anche fare lo stesso viaggio di quando eravate dei ragazzi, lo stesso identico, con le stesse persone. Ma anche fare un figlio, 10 o 15 anni dopo il primo. O prendersi una sbronza a 30 anni di distanza dall'ultima. Ecco, di solito rivivere la stessa esperienza a molti anni di distanza è un bel modo per vedere a che punto siamo noi. Ecco, se avete voglia di raccontarmi questa esperienza che avete ripetuto dopo anni, oggi io sono qui. 349-238-6666 l'SMS oppure 800-24-0024 per chiamare in diretta. Ci sono molte cose che si possono rifare nell'arco degli anni. Provate a ripensarci però. Non sto parlando tanto della malinconia del tempo che è passato e delle cose che non sono più le stesse. No, sto proprio parlando del fatto di misurare attraverso quel luogo, attraverso quel posto o attraverso quell'esperienza chi siamo noi adesso rispetto a quelli che eravamo 20 anni prima. O 30 anni prima. 800-24-0024. Per esempio, Bianca sul profilo Facebook mi ha scritto: questa notte, in preda ai troppi pensieri, ho scritto e disegnato su tutti i muri della mia stanza. Per la prima volta dai 2 anni che abito qui. L'avevo fatto all'università e l'avevo fatto nella stanza da bambina di casa dei miei. Ci sono momenti in cui le folle di pensieri si fanno più lucide e ingombranti, così scrivo. Non è cambiato nulla. Forse il fatto che ho capito che sono così mi va bene. e va bene così. Ecco, anche insomma, non è che capita tutti i giorni di scrivere delle robe sui muri a distanza di anni, però questa è un'esperienza che evidentemente Bianca aveva fatto anni prima. Carlitos, mi è capitato di rileggere lo stesso libro a distanza di tanto tempo e di scoprire che le suggestioni che uscivano da quelle pagine, quelle che mi folgorarono 20 anni fa, adesso erano del tutto scomparse. Il libro è Viaggio al termine della notte di Céline. 800240024 oppure 349-238-6666. Un altro piccolo appunto sul fatto che sono cominciate ad arrivare le mail a io sono qui @radio24.it per partecipare alla serata live di Io sono qui, che è giovedì 23 giugno 2011. Vi chiedo semplicemente di segnare nome e cognome e il numero di persone che sono presenti. Nell'oggetto scrivete 23 giugno, così arrivano direttamente alla sezione marketing o arrivano direttamente a Viola, che poi pensa a smistarle, e sappiamo quanti siamo. Molti mi hanno chiesto se siamo qui in radio. Non sarebbe male, tipo ammassarci tutti nello studio. E invece non sarà così, perché la splendida Serra del Sole 24 Ore riserva un sacco di sorprese, e all'interno dell'edificio disegnato e costruito con le sue stesse mani da Renzo Piano c'è una collina. Questa ve la racconto un po' come se fosse una leggenda. C'è una collina all'interno della sede del Sole 24 Ore, ma è una collina vera, fatta con le piante, la terra, il verde, solo che è coperta, da fuori non la potete vedere. Potete vederla solo se entrate. E la sera del 23 di giugno voi avrete l'opportunità di entrare all'interno della sede e di entrare in questa sala, che si chiama Sala Collina, che poi è un teatro, una sala conferenze, dove si svolgerà la serata, che è esattamente sotto la collina di Renzo Piano, che detto così sembra una boiata, invece no, è un posto molto particolare, insomma, quantomeno una collina nel centro di centro mica tanto, una collina nelle cerchie fuori da Milano. 800240024 invece per telefonare. Io sono qui @radio24.it per mandare la vostra partecipazione. Ricordo i nomi delle persone, quanti siete, ahimè niente minori. Mi chiedevano se possono portare i cani. Sinceramente credo di no, non siamo Radio Popolare, siamo Radio 24. 800240024 349-238-6666. Vi leggo un altro messaggio che mi è arrivato. Ciao Matteo, io ritorno ciclicamente in un campeggio della Corsica in cui ero stata da bambina per un po' di anni con i miei genitori. Pianto la tenda in riva al mare, mi addormento con il suono delle onde e mi sveglio con il calore dell'alba. Compro i croissant dallo stesso signore che già 15 anni fa li vendeva. Arrivava con il furgoncino in campeggio alle 9 del mattino, strombazzava e io mi mettevo in fila insieme agli altri campeggiatori. Uso ancora gli stessi bagni, il proprietario del campeggio non è cambiato e non è minimamente invecchiato. Adesso come allora, quando mi serve pensare ad un posto in cui tutto torna, in cui il cerchio si chiude, io penso a quel posto lì. Ciao Serena. Anche se il cerchio non si chiude, se rifate la stessa cosa, 800240024, se l'avete rifatta e avete misurato chi siete rispetto a chi eravate. Oggi io però sono qui. Perché non so se l'avete fatto anche voi. Cioè non so se, presi dalla foga con cui ho elencato tutte le cose che ho fatto quest'anno, per caso anche a voi è venuto in mente di mettervi ad un tavolo e fare l'elenco di tutto ciò che avete combinato in questi 9 mesi. Perché in fondo che l'anno finisca a luglio e non a dicembre, questo ormai lo sanno tutti. Gli anni si misurano a stagione, ad anni accademici più che ad anni solari. Da settembre a luglio. Poi le vacanze e a settembre ricomincia l'anno. Insomma, non so se qualcuno di voi ha anche solo ripensato ai 9 o 10 mesi da quando la vita ha ripreso il suo passo quotidiano, alternato da giorni feriali e giorni festivi. Beh, io ovviamente l'ho fatto. La sensazione è quella che le cose sfuggano. Che non è sempre un male, eh? Anzi. Però le cose fatte tendono a sfuggire. Io non credo nel congelamento delle cose del passato, eh? Non mi piacciono le tradizioni tenute in vita forzatamente. Non sopporto le cose tipo le ricostruzioni storiche. Penso che una tradizione del passato, se ha bisogno di essere continuamente rivissuta, forse ha fatto il suo tempo e va lasciata andare, in modo da lasciare spazio a quelle nuove. Tendo a liberarmi con facilità delle cose, degli oggetti, delle case. Non me ne faccio una grossa remora. Non mi piace conservare quello che non uso più, perché se non lo uso più è perché non mi serve più. Non sopporto quelli che vorrebbero tornare ai tempi delle scuole elementari, delle superiori, perché a quel tempo tutto era bello e tutto era spensierato. A quel tempo si era prigionieri per 5 ore al giorno, tutte le mattine, compresi i sabati, con levataggi alle 6 e pomeriggi seduti a studiare. Insomma, voglio dire che quando in questi ultimi giorni mi sono messo a guardare indietro all'anno appena trascorso, non ho provato malinconia e neanche desiderio di tornare indietro. Non mi è venuta voglia di mettermi lì a rievocare l'incontro con gli amici di Romentino, oppure il viaggio a Newcastle, o il primo bacio alla mia fidanzata. Mi è successa una cosa diversa. Mi è venuto il desiderio di rivivere quei momenti. Rivivere la propria memoria è una cosa diversa da rievocarla. È un po' la stessa differenza che passa tra guardare il Grande Fratello e vivere in un appartamento insieme ad altre persone. Non hai bisogno di accendere la TV. È sufficiente rientrare in casa. Non si tratta di mettersi attorno a un tavolo con gli amici di sempre e ricordare di quella volta in cui si andò ad Amsterdam in autobus, oppure di quando si uscì in barca per una settimana senza mai toccare terra. No, si tratta di tirare su lo stesso gruppo di amici e andare ad Amsterdam, oppure prendere una barca e stare fuori 7 giorni senza mai toccare terra. Nel primo caso c'è autocitazionismo delle proprie gesta. Nel secondo invece quell'evento si trasforma in un espediente per fare cose nuove, per incontrare le stesse persone ma a distanza di anni. Ecco, non è evocazione, è azione. Now your smile comes over in your voice. Now your smile comes over in your voice. I have no choice but to try to keep that voice close to my ear. Rivivere la memoria non è rievocarla. Questa cosa me l'ha insegnata un signore che ho incontrato qualche anno fa durante un corso di vela. Lui aveva 30 anni più di me. Avrebbe potuto essere mio padre, non fosse che non aveva figli. Era una persona cordiale, di quelle che hanno sempre un sorriso a disposizione, ma che non usano mai troppe parole. Di quelle persone che escono alla lunga distanza, i primi giorni quasi non ti accorgi di loro. Poi col tempo vieni come attratto da quella figura, che ti sembra capire sempre quello che tu nemmeno hai cercato di far comprendere, e che dice due parole in risposta a una tua affermazione, e quelle due parole non sono banali, sono precise, sono attente. Era un medico di Siracusa, si chiamava Sebastiano. Una sera, dopo la solita cena insieme a tutti gli allievi del corso, ci mettemmo a fare 4 chiacchiere e finimmo a parlare di amore, di rapporti di coppia. Io avevo 20 anni, avevo paura che la mia vita sentimentale fosse in una crisi enorme, inesorabile, semplicemente perché la relazione che avevo all'epoca da qualche mese mi sembrava che stesse per finire. Sebastiano, con una serenità epocale, si mise a raccontarmi del suo matrimonio. Era sposato da 35 anni, mi disse che erano tanti ed erano lunghi, e che in 35 anni può succedere di tutto. E le cose succedono pure, ma che la cosa più pericolosa che potesse accadere era perdere di vista il senso. Dimenticare il motivo per cui tutto era cominciato. Non sapere più perché 35 anni prima, quando aveva incontrato quella persona, in pochissimo aveva deciso di farla diventare la sua compagna di vita. Dimenticare le ragioni per cui si erano innamorati. Perdere di vista l'obiettivo comune. Insomma, tutto quello che può accadere in 35 anni di vita che ti passa addosso e che ti cambia. Fumava al Toscano, Sebastiano. Tra una boccata e l'altra mi disse che lui però aveva trovato un modo. Aveva trovato una tecnica per evitare che tutto questo accadesse. E mi disse che il segreto era rivivere le tappe della propria storia d'amore. Lui mi diceva che ogni rapporto ha dei momenti peculiari, no? Di accelerazione oppure di riflessione. Momenti di passaggio in cui inaspettatamente succedono delle cose. Cose che poi col tempo entrano a far parte di quella storia, si infilano sotto pelle ai due amanti. Ecco, il segreto per lui era quello lì. Era tornare a rivivere anche a distanza di anni i momenti più importanti del rapporto con sua moglie. E per farlo erano partiti dall'inizio. Avevano trascorso un fine settimana nella stanza dell'albergo di Ortigia dove avevano passato la prima notte di nozze. E poi in ordine sparso erano stati a trovare gli amici che erano andati al loro matrimonio, uno ad uno, anche quelli lontani, quelli che di solito vedi proprio solo ai matrimoni o ai funerali. E poi erano tornati a Parigi, dove erano stati in viaggio di nozze. Avevano noleggiato il DVD del film Kramer contro Kramer, che avevano visto anni prima al cinema, e li aveva fatti litigare per la prima volta violentemente. E mi ha detto che riguardandolo ci avevano riso sopra. Avevano preso un cane al canile, un incrocio tra un setter e un pastore tedesco, anziano, di circa 8 anni. Lo avevano preso anche se si erano ripromessi di non farlo mai più, dopo la morte del loro primo cane. Da 10 anni si erano trasferiti in una casa grande nel centro storico di Siracusa, però ogni tanto tornavano al paese in cui si erano conosciuti, a Priolo, a mangiare una pizza. Non era un bel posto, però era lì che si erano incontrati con degli altri amici quasi 37 anni prima. E anche il fatto che lui fosse lì da solo a fare un corso di vela era perché volevano riprendere una vecchia abitudine di passare qualche giorno in vacanza da soli, con le amiche lei e a fare una cosa che gli piaceva a lui. Ricordo ancora quella sera di fine maggio in Sardegna e quella chiacchierata con Sebastiano. Se oggi credo nella possibilità di passare tutta la vita con qualcuno, forse lo devo un po' anche a lui. By a bee, I was bitten by a snake, and I was stung by a bee. But when the sun rose up this morning, my baby sang a song for me. My baby sang a song for me. My baby sang a song for me. When the sun rose up this morning, my baby, she sang a song for me. E quindi quel metodo l'ho applicato. Ho applicato il metodo di Sebastiano all'anno trascorso. L'ho fatto scorrere velocemente, contando i pezzi sulle dita. Dire sempre la verità, stare ospite da Simona, la ricerca di una nuova casa, il matrimonio di mia sorella, l'ascoltare chi si confessava con me, la cassiera dell'Esselunga, Newcastle e gli amici di Romentino, la scatola, Agata e Vincenzo, il viaggio a Procida, Natalì. La cozzeria e il pronto soccorso, e poi Italo e Michela Pesca, e ancora la montagna, la convivenza, esaudire i desideri e rompere tutti i vetri di casa dei miei. Il baule, la portinaia e il vicino pornattore. L'ONG e il capo, Maurizio. Poi gli amici delle medie, Claudio, Agostino, Gaia e Giorgio. Il viaggio in montagna da Claudio, l'incontro con Agostino. Giovanni Denaro, il lavoro in biblioteca. Ciccio Nonna Papera, la ragazza della biblioteca. Rileggere il giovane Holden da capo, Giulia e l'archistar. E poi ancora in un milione di piccoli pezzi. Vivere per una settimana senza acqua. Samir, Tbilisi, Ettore e il dottor Salvati. Ok, parto da Simona. Pronto? Pronto Simona? Ciao, sono Matteo. Ecco, esattamente come il messaggio di Fabio, quello che intendo. Ciao, io sono andato a ballare dopo tanti anni. Prima usavo tante droghe, adesso sono andato alla stessa discoteca, con le stesse persone, ma senza le droghe. È stato più bello di tutte le altre volte. È proprio la misura della stessa cosa fatta nello stesso posto, ad anni di distanza. Chi eravamo prima e chi siamo adesso. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo su un comodino e ve lo dico proprio con il cuore in mano. Questo è esattamente il tipo di foto per cui è nata questa cosa. Di scattatemi una foto esattamente del posto in cui siete. Un comodino. Lo dico anche per Alessandro Marco Tulli dall'altra parte del vetro. Allora, su questo comodino c'è un orologio digitale che segna le 19.02, c'è un libro appoggiato che è Viva l'Italia di Aldo Cazzullo, c'è un modellino di un furgone da Volkswagen, un Super Mario Bros, credo fatto con il Lego, dei fogli probabilmente da leggere e da studiare, e un paio di occhiali. Ah, no, e poi c'è una luce che illumina tutto come in un film di Terence Malick. Luigi Pedone, 24 anni. Appena tornato a Milano, dopo una settimana, a casa, a Foggia dei miei. Il comodino Ikea è rimasto intatto. Le mie ultime letture, il Mario Bros di carta che mi sorride fatto da Jess, il camioncino hippie comprato a Berlino con lei, gli scatti al matrimonio di mio fratello. Io sono qui. Scusami, mi ero perso. Aspetta che la riprendo. Gli scatti al matrimonio. Ah, giusto, ci sono degli scatti. Non l'avevo visto. Mi sembrava un cubo di Rubik, figurati. Grazie a Luigi. Io sono qui, @radio24.it. È sempre la mail per mandare le vostre foto, oppure le caricate anche sul profilo Facebook. Matteo Caccia, io sono qui. Le cose rifatte a distanza di anni. Molte cose rifatte a distanza di anni di solito deludono. Ecco, questa è la parte depressiva degli ascoltatori di Radio 24, che sono legati al fatto che non ci sono più i tempi di una volta, quando avevo 20 anni, quando ne avevo 30. Nella canzone I tre miti dei Nomadi si racconta bene il tema di oggi. Guarda, a noi piacerebbe tanto mandarli, ma ci hanno proprio dato un vincolo per cui i Nomadi noi non li possiamo mandare, vero Tiziano? Proprio i Nomadi, e dire che noi ogni tanto vorremmo tanto mandarli, ma sono ancora vivi i Nomadi, tra l'altro, no? Sì, più o meno, quasi tutti, quasi. Non so più i Nomadi di una volta, certo. Andare a rivedere i Nomadi oggi rispetto a 10 anni fa sono proprio diversi, però effettivamente sono diversi. cioè mantengono il marchio ma sono diversi? Due son gli stessi, mi dicono. E sapevo anche, sapete qual è la leggenda sui Nomadi, no? Che sono il gruppo che fa più date in Italia, fanno tipo 320 date, che se tu le conti è impossibile, no? In un anno, ovvio, non fanno neanche sabato e domenica, Natale, non vale tutto. Però niente Nomadi, io sono qui, mi spiace. Ho fatto l'amore con una mia ex 11 anni dopo che ci eravamo lasciati, è stato bello come allora. Enrico, perché tu sei sempre un po' il solito, Enrico. Andiamo da Giampiero di Vicenza però. Pronto Giampiero? Ciao. Ciao Giampiero, grazie per essere qui. Senti, grazie. Tu hai fatto la... tu arrampichi, mi sembra di capire. Sei un... Sì. Sei un... come si chiama? Free climber? Alpinista, sì. Un alpinista arrampicatore. Ma quindi non a mani nude, cioè hai corde, picozze... Sì, sì, con le corde, perché la differenza di arrampicare con le corde e senza è che senza corde sbagli una volta e muori. E muori. E muori, certo. No, però mi sono spiegato male. A mani nude o con le picozze e i ramponi? A mani nude sulla roccia, con le picozze e i ramponi li usi d'inverno. E fai, ghiaccio, e fai entrambe le cose? Sì, entrambe le cose. Tu hai rifatto la stessa via di arrampicare, si chiamano vie, giusto? Sì. Quelle che sali. A distanza, sì, di quanti anni? Distanza di 10 anni, praticamente avevo un mio amico che continuavo a dirgli portami ad arrampicare, avevo 19 anni, adesso ne ho 35. Dalla voce ne dimostri un 55 però, Giampi, come mai? Cos'è successo in questi 15 anni? Non lo so. Che lavoro fai, Giampiero? Faccio il giardiniere. Dove? In una cooperativa sociale a Vicenza. A Vicenza. Allora, guarda, questo è uno dei pochi lavori che posso dire, l'ho fatto anch'io, il giardiniere in una cooperativa sociale, però facevo il servizio civile. Figurati. Senti, che via era quella che hai fatto? Ha un nome? Era la via, adesso non mi ricordo, è comunque sulla Gugliegei, che è sulle piccole Dolomiti. Ok, senti, senti il grado, la difficoltà? Era un quarto grado, che all'epoca quando l'ho fatta, per me sembrava... difficilissima. Impossibile. Invece un quarto grado, scusami, per un profano un quarto grado è facile. Diciamo che se sei un po' allenato un quarto grado non è impossibile, insomma, è abbastanza facile. Giampi, ti ringrazio molto e buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Stai su, Ciao. Stai su che mi sembri un pochettino abbacchiato. Andiamo da Matteo, Grandi Sport, nuotatore. Pronto Matteo? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo. A te si sente almeno. E soprattutto hai una voce, hai una voce, quanti anni hai? Io ne ho 28, guarda, ho chiamato pochi giorni fa, no? Ci siamo sentiti un paio di giorni fa. Tu pensa, e invece raccontami di questa roba che hai rifatto dopo esattamente quanti anni? 10 anni, 18 anni fa io nuotavo in una squadra agonistica di un buon livello, diciamo così, facevo gare a livello nazionale di categoria e poi a 18 anni ho smesso perché sai com'è, a quell'età subentrano altre priorità. Poco tempo fa sono tornato a farmi una nuotatina con degli amici e l'unica cosa che mi ripetevo era ma chi me l'ha fatto fare, cioè è una cosa incredibile, soffrivo in silenzio nuotando, facendo bracciata dopo bracciata. Beh, ma perché tu non avevi mai più fatto niente da 10 anni a questa parte? No, no, ma che poi mi sono dato il calcio, calcetto, palestra, ho fatto mille altre cose, però come nuoto non c'è niente. E come sofferenza, a livello di sofferenza, è uno degli sport maggiori, insieme, diciamo, insieme dicono alla maratona e al ciclismo. Verissimo, però questo verissimo. Che ne so io, lo sa Garanzini. Grazie Matteo, buona giornata. Ma posso chiederti una cosa? Sì. Al volo proprio, ma Tiziano Bonini può fare una lista con tutte le canzoni? Poi ci penso io a trovarle, tra guarda, virgolette. Tiziano Bonini alla fine della stagione farà il grande regalo della playlist di tutto l'anno di Io Sono Qui. Grandissimo. Va bene. Ciao Matteo. Ciao Matteo, buona giornata. Quando mi chiedono posso chiederti una cosa, c'ho sempre tipo un tuffo al cuore. Pronto Mauro? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo. Senti, tu sento che stai bene. Quindi. Io sì, io ti tiro dritto. Tu avevi una rock band e vi state riunendo. No, allora sì, ci siamo già riuniti, però diciamo che la rock band si è sciolta nel 1976. Un po' come i Beatles. No, i Deep Purple. Chi è che sono sciolti nel 76? I Deep Purple. ha fatto l'ultimo concerto nel 1976 ed esattamente nel 2008, 35 anni dopo, abbiamo rifatto ancora un concerto con la stessa band. Dove? Dove era l'ultimo e dove era il primo? Allora, l'ultimo era a Saronno in una scuola. Roba su quindi, Mauro. Quanti spettatori c'erano? Ma la scuola era piena, era, non so se non mi ricordo. 500? 1000 persone. 1000 persone, wow. Sì. Però il bello è che poi nel 2008, quando abbiamo suonato abbiamo risuonato, ce n'erano 2000 di persone. Ma com'è, Mauro? Cosa fa? Gli hai offerto un caffè a tutti oppure fai qualcosa di particolarmente no, in vista? Abbiamo giocato in casa, nel senso che noi siamo un gruppo di Lecco, non so se posso dire il nome. Ma certo che lo puoi dire. Allora, un biglietto per l'inferno è il nome... il nome original. Adesso si è aggiunto un punto folk perché chiaramente non abbiamo rifatto tali e quali pezzi. No, li avete resi folk. Ma completamente rinnovati, rivestiti, rifatti. Ho i brividi, Mauro, dimmi un titolo della nostra canzone. Allora, un titolo della nostra canzone, Il cavallo di battaglia, era Confessione, in cui c'era il nostro cantante che faceva la parte del frate Isaia. E guarda caso, dopo 35 anni, lui è veramente un frate benedettino e ha rifatto la canzone facendo il frate veramente. Mauro, ti saluto dicendomi, dimmi la prossima data che fate. La prossima data, dunque, dovremmo essere a Roma a ottobre e in Giappone a novembre. Ma lo fai di mestiere, Mauro? No, assolutamente. Va bene, senti... Sono un artigiano. Cosa fai? Faccio arredamenti per barche. Va bene, Mauro, ti ringrazio moltissimo. Buona giornata. Grazie a te. Ciao, ciao, alla prossima. Chiudiamo alla prossima. Alla prossima volta. Cosa dire alla prossima? Buonanotte. Chiudiamo con il solito racconto. Il racconto che finisce la puntata. Il racconto che vi racconta. Io sono qui, @radio24.it. Questo si intitola Perché? In fondo, fino a quel momento, tutto era filato liscio. Tanto che lui cominciava a farlo con una certa sicurezza. L'ultima firma, quella che aveva falsificato, ad esempio, l'aveva impressa senza sbavature. Così simile all'originale è difficile da distinguere. L'aveva scritta con un movimento netto, deciso, esperto ormai. Ma ora, seduto in quella stretta aula dei colloqui, davanti a me, tutto gli pareva così complicato e ingombrante. Si sentiva soffocare. Si era immaginato la possibilità di quel momento e un po' forse si era pure preparato, anche se con il passare del tempo gli pareva un'eventualità sempre più remota. Si sentiva forte, anche di fronte agli inevitabili rimproveri che si sarebbero scatenati contro di lui. E anche le conseguenze, che certo non si augurava, lo preoccupavano, ma in fondo non così tanto. Quello che lo spiazzò fu quel perché. Non se l'aspettava. Non l'aveva calcolato. Perché chiedere il motivo di un gesto che sembrava ovvio? Che importanza poteva avere il motivo? E soprattutto, a chi poteva interessare? Io ringrazio Luca che ha scritto questo racconto. Luca, tra l'altro, è un maestro, credo, non mi ricordo più se del Bresciano o del Bergamasco, che ha fatto fare un esercizio ai suoi allievi, a cui ha fatto scrivere un Io sono qui personale. Luca, poi ci risentiremo perché vorremmo sapere che fine ha fatto lui e i suoi allievi. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche il programma di oggi. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?